diciamolo crudemente, se io aiuto qualcuno a non ammalarsi di infarto, non contribuisco al prodotto interno lordo nazionale, perché la medicina funziona anche perché contribuisce largamente al prodotto interno lordo nazionale. Noi spendiamo 125 miliardi all'anno, mi sembrava fosse l'ultimo dato circa, ne sai qualcosa tu, Cristian. Comunque, una cosa tipo tanto, ok? In Europa, se moltiplicate quello che si spende in Italia, in Germania, in Francia e via dicendo, parliamo di centinaia e centinaia di miliardi ogni anno che vengono spesi per fare che cosa? Per mettere delle pezze, per riparare i danni, ok? E questo però c'ha dietro un'enorme quantità di denaro che circola, costruire ospedali, fare diagnosi, curare, farmaci e via discorrendo. Quindi a nessuno interessa, francamente, che quello che faccio io, che vuol dire cercare di evitare che una persona si ammali, che si prenda l'infarto, che diventi diabetico e via discorrendo. La statistica che viene sbandierata è che bello, l'attesa di vita alla nascita media per una donna in Italia è di 85 anni, è leggermente diminuita col Covid ma non tanto, e per un uomo di 80, in media sono 83, mettendo i due insieme. Rispetto a 50 anni fa è un grosso passo in avanti, ok? Questa è l'aspettativa di vita media, però nel frattempo c'è stati gli antibiotici, ci sono stati i bambini non muoiono più di gastroenteriti, non muoiono più di morbillo, non muoiono più di un sacco di cose, per cui in realtà l'aspettativa di vita media è una media, se uno muore a 80 anni, uno muore a 10 anni, sono 80 più 10 fa 90, la vita media è 45 anni, okay? Però è tutto un po' sbilenco. L'altra statistica che potete vedere sui dati Istat tranquillamente è: ma qual è l'attesa di vita alla nascita senza malattie croniche debilitanti, quelle che abbiamo elencato prima? Beh, l'Italia va un po' meglio della maggior parte dei paesi europei. L'attesa di vita alla nascita senza malattie croniche debilitanti è di 67 anni. Poi alcuni la riducono dicendo tutti gli anni in cui uno sta bene anche emotivamente, eccetera, eccetera, allora scenderebbe a 58. Però lasciamo perdere questa parte, parliamo soltanto della parte con le malattie croniche debilitanti. Tra i 67 e i 83, avere l'Alzheimer o l'infarto, quindi dover essere curato, eccetera, per tutti quegli anni, non è una bellissima cosa, okay? Però contribuisce al prodotto interno lordo e siamo sempre lì. Non è qualcosa che viene sbandierato, il fatto di essere il rischio di passare tanti anni con problemi di tipo cronico infiammatorio, e queste patologie rappresentano circa il 90% delle malattie, il 90% delle morti precoci, perché in realtà, diciamocelo di nuovo, non è che dobbiamo vivere fino a 85 anni se siamo una donna o fino a 80 se siamo un maschio, potremmo vivere molto più a lungo se non ci fossero i processi infiammatori. In realtà la biologia sta facendo dei passi davanti giganteschi e sarà sempre più chiaro che si dovrà passare da una medicina ferma al XX secolo, che questa è la realtà, la medicina si è fermata al XX secolo in cui l'obiettivo era quello di mettere le pezze, di riparare, quindi e sono stati bravissimi. Adesso di infarto non si muore più, viene l'infarto, viene ricoverato in ospedale, il cardiologo interventista ti ripara, addirittura senza neanche aprirti il torace, ti manda dei tubi in giro, eccetera, eccetera, ok? Questo va bene, però è sempre riparare delle pezze. Chiaro? Fino qui ci siamo. È una realtà che non ci piace tantissimo, ma che su cui non si può molto agire in questo momento, ma secondo me e secondo tanti ci sono delle evidenze sempre più chiare in biologia che la teoria sarebbe che si potrebbe vivere molto più a lungo e bene, perché l'idea non è quella di vivere molto a lungo malati, ma è quella di vivere a lungo bene. Alcuni, forse un po' estremisti, io mi ci trovo abbastanza bene con questa definizione, ma vorremmo che l'unica problema che ci fosse fosse quello della vecchiaia. Alcuni dicono l'unica malattia dovrebbe diventare la vecchiaia, ma non è, la vecchiaia non è una malattia, è fisiologica. Ma uno vorrebbe andare avanti a vivere bene fino a che un giorno muore, magari a 100 anni o 120, perché non è del tutto se stai bene, perché no, ok? Adesso il problema, il dramma, è che si muore troppo presto, okay? Si muore troppo presto perché ci sono delle cose che ci fanno invecchiare prima, ci sono delle cose che ci fanno, che ostacolano il nostro benessere lungo il corso della nostra esistenza. E alcune di queste cose ci vengono imposte fino a quando siamo bambini. Pensate al nemico pubblico numero uno, già lo ve lo dico, insomma, il nemico pubblico numero uno si chiama fruttosio, voi pensavate lo zucchero, ma io dico si chiama fruttosio, che è nient'altro che la metà della molecola di quello dello zucchero, quello bianco che mettete nel caffè o che viene usato largamente. Il fruttosio è un dannato veleno, ok? Il nome fruttosio viene ovviamente, è stato scoperto da dei chimici intorno agli anni 1886, se ricordo bene, dalla frutta, e quindi è rimasto lo zucchero della frutta, si chiama fruttosio, che la maggior parte della gente pensa, ah che bello, il fruttosio in fondo è frutta, quindi è buono, va bene, ne parleremo ancora del fruttosio, perché è un aspetto molto, molto importante di quello che sto cercando di dirvi. Vediamo dove sono arrivato. Avevo preso delle note, poi non le seguo perché mi stufo. Beh, insomma, siamo rimasti alla medicina del XX secolo, quindi la medicina del XX secolo è quella di riparare. Adesso dovremo muoverci a una medicina del XXI secolo, una medicina nuova che tiene conto degli avanzamenti della biologia. Devo dire una cosa, noi siamo, ogni tanto faccio dei salti logici, ma poi li rimettiamo insieme. Noi siamo, ovviamente, come tutti sanno, il frutto e il risultato di un lungo processo di evoluzione. Circa 5 milioni di anni fa sono stati i primi Homo. Noi siamo la conseguenza di una varia evoluzione in cui molti degli Homo sono finiti in niente. Noi siamo Homo sapiens, l'unico rappresentante del genere Homo che è rimasto sulla Terra. Noi esistiamo come Homo sapiens da circa 200.000 anni, che è pochissimo nell'evoluzione come numero di anni è poco. Siamo ancora Homo sapiens. Ci hanno cercato di inculcarci l'idea che siamo speciali, siamo stati definiti da Dio come un gruppo di persone, degli esseri speciali che sono superiori a tutto il resto. Non è affatto vero, noi siamo animali e siamo Homo sapiens, quindi con delle tradizioni che vanno indietro di 200.000 anni. Per la maggior parte di questi 200.000 anni, diciamo circa 190.000 di questi 200.000 anni, noi siamo stati cacciatori e raccoglitori. è innegabile. E poi quando ho cominciato la prima agricoltura e poi l'allevamento degli animali domestici, sono passati altri anni, ma non tutti hanno smesso immediatamente di essere cacciatori e raccoglitori, è continuato per lungo tempo. Le cose hanno cominciato a cambiare piano piano a partire da circa 12.000 anni fa, e poi improvvisamente tutto è cambiato. Negli ultimi 100 anni tutto è cambiato. Pensando di non essere più cacciatori e raccoglitori, ci siamo cacciati in un vicolo cieco, perché siamo messi piuttosto male. La stragrande maggioranza delle persone, io arrivo a dire quasi il 90% delle persone, sono metabolicamente in disequilibrio. Ci sono grossi problemi di salute, perché avendo abbandonato completamente il nostro rapporto con la vita sulla terra, col mondo, con la natura, abbiamo cessato di essere Homo sapiens e abbiamo pensato che si possa diventare onnivori, pensando che essere onnivori vuol dire poter mangiare le patatine chips o l'hamburger di McDonald's o la Nutella, ok? Il problema adesso è diventato che noi abbiamo perso il rapporto con il nostro essere Homo sapiens e abbiamo fatto delle cose che sono tragiche dal punto di vista della nostra salute. Tragica è una buona parola, nel senso che ci ammaliamo troppo e moriamo troppo presto, con grandi sofferenze prolungate. Non sto parlando magari di questo gruppo, ma in generale nella popolazione è quello che succede. Okay? Basta guardarsi intorno, un sacco di gente è sofferente. Quali sono i fattori che stanno alla base di tutto questo? Diciamo che il cibo non è mica tanto indietro nella nostra priorità. Siamo passati da un'alimentazione fatta di bacche, radici, animali cacciati che avevano mangiato bacche e radici, che avevano mangiato quello che era giusto per loro, agli allevamenti intensivi, a prodotti industriali, sempre, costantemente, tutto il tempo. Quindi un cambiamento radicale è avvenuto molto rapidamente in poco tempo. Ci sono faccio una cosa che si chiama medicina funzionale, in cui pensiamo che le persone siano da considerarsi come entità, non parliamo di organi che funzionano indipendentemente. E guardate, tutta la medicina ormai è fatta di super specialità, quindi super specialità che non si parlano una con l'altra. Quindi fare una medicina che cerca di mettere insieme i pezzi, dove i pezzi stanno insieme perché hanno delle relazioni tra di loro e si parlano e comunicano. Okay? Quindi c'è ad esempio l'organo principale, la struttura principale che tiene insieme il tutto, che si chiama... Qual è secondo voi quello che tiene tutto insieme? L'intestino. Ma perché tu lo sapevi? L'intestino, perché l'intestino, se guardate bene, l'intestino è il nostro rapporto col mondo esterno, ok? È quello che mangiamo, che è la nostra energia, ci vuole energia per vivere, viene elaborata dall'alimento dell'intestino. L'intestino non è altro che un tubo di muscolo dentro il quale circola il sangue, circola la linfa, ci sono le terminazioni nervose, ci sono i collegamenti con il resto del corpo. Un tubo che al suo interno è rivestito da un sottile strato di uno strato di cellule, ok? Quindi quello che separa il mondo esterno dal nostro mondo interno, fatto di tutto il metabolismo, è uno strato di cellule che separa il mondo dall'altro. Poi c'è il respiro, c'è la pelle, ma la maggior parte del nostro rapporto col mondo esterno passa attraverso quello che mangiamo e quello che ingeriamo. Chiaro? E questo tessuto sottile che ricopre tutta la parte interna del nostro intestino, che potremmo, se lo mettessimo giù, sarebbe circa 200 metri quadrati, okay? Quindi una superficie delicatissima, che era stata prevista nell'evoluzione per mangiare le cose che uno raccoglie, che per cacciare animali che avevano mangiato quello che la natura provvedeva, ok? Quindi adesso gli mettiamo dentro un sacco di robaccia e quindi si danneggia e si comincia a danneggiare fin dalla prima infanzia, purtroppo, ok? Quindi non è banale questa cosa, no? Che il nostro intestino sia un... Poi ci sono altri sistemi che parlano di... Tutto il sangue che va all'intestino, quando esce, passa tutto, praticamente tutto, 99%, tranne l'ultimo pezzettino del retto, va al fegato. Quindi intestino e fegato. Il fegato è un organo importantissimo che serve a depurare, a controllare tutto quello che voi avete che è stato assorbito dall'intestino e quindi a renderlo meno tossico, meno nocivo, meno, ok? Quindi l'intestino manda delle cose, se poi l'intestino è danneggiato manda anche un sacco di cose in più che non dovrebbero andare, e il fegato è la prima barriera per bloccare quello che deve essere bloccato e per aiutarci in un equilibrio di vita migliore. Adesso il fegato ha un ruolo fondamentale e anche molto difficile. E infatti ci sono dei problemi che sono proprio legati alla difficoltà del fegato di funzionare bene. Poi ci sono altri sistemi che noi prendiamo in considerazione, ma sempre pensando al tutto, a sistemi, ad esempio il sistema ormonale è importante. Nel titolo c'erano i microbi, no? Perché? Perché i microbi? Perché noi viviamo in un mondo dannatamente pieno di microrganismi. Ci sono microrganismi dappertutto. E la massima concentrazione nota di microbi sta nel nostro colon, nell'ultimo metro di intestino, dove c'è un'attività fermentativa mostruosa. Okay? Il nostro intestino è pieno di microbi e i microbi svolgono delle funzioni importantissime senza le quali noi non saremmo vivi. Okay? Quindi, quando parliamo di mangiare bene, dobbiamo mangiare bene non solo per nutrire il nostro organismo, ma dobbiamo mangiare bene per nutrire i 150.000 o forse 200.000 miliardi di batteri che ci vivono in noi, dentro il nostro intestino, ma anche sulla pelle, su tutte le cavità, dappertutto. Noi viviamo in un mondo batterico, i batteri esistono da 3 miliardi di anni, noi siamo qua da 200.000, per cui vedete voi che è più, la sa più lunga. E il nostro organismo è un organismo complessissimo. Noi sappiamo una piccola parte di quello che avviene, ma per rendervi un'idea vaga di come funziona il nostro corpo, in ogni istante della nostra vita avvengono miliardi e miliardi di attività chimiche, metaboliche, ok? C'è una intensità di lavoro metabolico che è stupefacente. E questo avviene in tutti gli animali, okay? Ma compreso anche noi. Per far funzionare questa macchina complessa che è il nostro intestino, il nostro organismo, il nostro corpo, è richiesto tutto quello che ci viene dall'esterno, okay? Perché dove prendiamo le cose che ci servono a far funzionare il nostro organismo, lo prendiamo dall'esterno attraverso il nostro cibo, ok? L'energia viene da lì e il cibo deve contenere che cosa? Deve contenere decine di migliaia di sostanze che servono a queste miliardi di attività biochimiche, a queste centinaia di miliardi di batteri che devono vivere, Ok? Quindi, se noi semplifichiamo la nostra alimentazione, la riduciamo a poco, come sta succedendo, a poca varietà, non abbiamo sufficienti quantità di microelementi che servono a darci una vita in equilibrio. So che è un po' vago, però piano piano si arriverà a capire quali devono essere, e già ne sappiamo abbastanza a sufficienza per trovare un equilibrio tra le parti che sia soddisfacente. L'equilibrio tra le parti non è facilissimo, ma si può cominciare a intravedere. 10 anni fa circa non sapevamo studiare i microbi che vivono nel nostro intestino. 25 anni fa c'era una diatriba sul fatto se noi potessimo essere in simbiosi con altri organismi, ad esempio nel mondo microbico. I microbi si scambiano DNA tra di loro continuamente, adesso lo sappiamo con sicurezza, cioè sappiamo che cambiano tantissimo, se uno gli manca un pezzo lo prende da un altro, anche di una specie diversa, così pure le piante in maniera minore. Noi non lo facciamo così perché viviamo in simbiosi con il mondo microbico. Abbiamo appunto 150.000 miliardi di batteri che vivono in noi, ma abbiamo anche tutta l'energia che ci viene da un corpuscoletto, dei corpuscoletti che si chiamano mitocondri. L'avete sentito parlare di mitocondri? Okay? I mitocondri sono il nostro motore energetico, che stanno in tutte le cellule del nostro corpo, tranne i globuli rossi, ma questo è un particolare. Cosa sono i mitocondri? Sono degli organelli che hanno il loro proprio DNA, si chiama DNA mitocondriale, e questo DNA viene perché erano un tempo dei batteri che circa 50 milioni di anni fa sono entrati a far parte delle cellule che hanno preceduto di gran lunga anche il genere Homo, gli eucarioti cosiddetti, per fornirgli l'energia e la capacità di utilizzare l'ossigeno. Okay? Quindi noi siamo simbionti non solo perché abbiamo un sacco di batteri che vivono in noi e per noi, ma anche perché la nostra energia viene dall'avere un sacco di mitocondri. Okay? I mitocondri sono quelli che ci danno che ci danno l'energia che viene, che è una sostanza che si chiama ATP, okay? Che è il motore, no? La nostra benzina. Okay? La produzione di ATP da parte dei mitocondri dipende dal cibo, dall'energia che gli diamo. Okay? Quindi possiamo dargli energia in vari modi. Quello che conta in assoluto è la varietà. Abbiamo bisogno di avere un sacco di cose che sono utilizzabili nel nostro corpo, che vengano assorbite bene da un intestino che funziona bene, e dobbiamo dargli l'energia sotto forma di, generalmente, di glucosio, che è la fonte di energia principale, che viene immediatamente trasformata da tutte le nostre cellule. E con l'aiuto di un ormone che si chiama insulina ci inizia il processo di produzione dell'energia in tutte le cellule attraverso i mitocondri. Torniamo al veleno numero uno, okay? Il fatidico fruttosio. Il fruttosio è la metà della molecola dello zucchero, che è un disaccaride. Si chiama saccarosio lo zucchero, che sia bianco, che sia integrale, stessa roba. Okay? Il fruttosio è il veleno numero uno perché se ne consuma una quantità gigantesca, cosa che non è mai esistita nella nostra storia evolutiva recente. Okay? Lo zucchero esiste da circa 200 anni più o meno, i consumi sono aumentati a partire da circa 200 anni, niente. Okay? Prima la nostra energia veniva soltanto dal glucosio, che era abbastanza equilibrato. Ad esempio la frutta di un tempo non è come la frutta di adesso è molto dolce, la frutta di un tempo non era così dolce. Abbiamo cambiato anche la frutta che mangiamo, quindi mangiamo più fruttosio in generale. Il fruttosio, quando lo ingeriamo, si comporta esattamente come l'alcol etilico. Non c'è una grande differenza. Il punto di ingresso è leggermente diverso. Una volta che sono nel fegato, si comportano esattamente nello stesso modo. Quindi tutto quello che ha a che fare col fruttosio è molto simile a quello che succede se uno beve troppo alcol. Okay? E viene dato anche ai bambini. Okay? Pensate di dare l'alcol ai bambini, ma in realtà li riempiamo di fruttosio. E una delle conseguenze più profonde è che noi siamo diventati dipendenti da questo zucchero molto dolcificante che è il fruttosio. In gran parte viene aggiunto dall'industria attraverso la lavorazione del mais. Il mais è diventata la principale fonte di fruttosio che viene utilizzato dall'industria in quantità ciclopiche. Quindi il fruttosio, quando va al fegato, produce progressivamente un danno perché aumenta la capacità del fegato di riempirsi di grasso, ok? Quindi fa esattamente quello che fa l'alcol etilico, produce alla lunga un fegato grasso, produce un danno metabolico, che è il danno principale delle persone, cioè anche persone che sono, vedete, che stanno sufficiente bene, che sono magre, quelli che sono sovrappeso ne hanno un po' più di rischio di essere metabolicamente in disequilibrio, ma quelli che sono magri possono avere un problema legato principalmente al consumo di fruttosio. Quindi io non voglio spaventarvi eccessivamente su questa cosa qua, ma vi voglio spaventare anche. Perché forse non so quanti di voi abbiano sentito questa storia del fruttosio. Io devo fare una domanda. Quando volete. Tu parli di fruttosio nella frutta o quello che si usa come dolcificante? Quello che si usa come dolcificante primariamente, perché se ne consumano una quantità ciclopiche. Okay? Se uno mangia due mele al giorno è pericoloso. No, non è pericoloso. No, è una buona domanda, no, è vero, no? Però guardate cosa fanno in molti, perché c'è una propaganda malefica che fa dire che vi potete compratevi una centrifuga oppure un sì, dove ci mettete in una centrifuga ci mettete una gran quantità di frutta, di verdure, anche le carote, eccetera. Buttate via tutte le parti utili, quindi il grasso, le bucce. Quello lì è fruttosio. È una delle cose più nocive che ci siano e fa ingrassare e non dà e toglie salute, ok? Quindi se per caso avete una centrifuga, buttatela via, regalatela a qualche nemico, perché... No, non cioè, i succhi di frutta sono la stessa roba. Anche le marmellate fatte in casa? Le marmellate fatte in casa sono veleno, sì. Ma non è un veleno, non è un veleno che ti uccide subito. Provoca un danno progressivo al fegato. Lo so. Sarà anche questione di quantità, però. È anche questione di quantità, però cioè, è una cosa che non è mai esistita. Stiamo parlando di cose nuove. Il fruttosio non c'era nella frutta che si mangiava un tempo, era acida la frutta. Okay? Sì. È vero che sono cambiati molto l'abitudine alimentare, però è vero anche che io faccio 500 anni fa, aspetta che la dieta media era 40 anni. E non di begli anni, soprattutto. Certo, ma abbiamo fatto dei progressi nelle riparazioni, non si muore più di gastroenterite quando si ha 5 anni. Ok? Non si muore più di morbillo, non si muore più di tetano, non si muore più di vaiolo, non si muore più di... Tutta quella roba lì è stata eliminata dalla... Io ne ho parlato all'inizio, sono stati fatti dei grossi progressi, per cui prima di arrivare a 10 anni una buona metà dei bambini erano morti, ok? Se ne dovevano fare tanti perché per poterne sopravvivere almeno due. Non è che fosse meglio l'alimentazione No, ma io sto parlando di prima di 12.000 anni fa. Prima di 12.000 anni fa. Quant'è l'aspettativa di vita media? Beh, no, sembra che fosse, a parte gli incidenti, sembra che fosse 90 anni, 80, 90, cioè non... si poteva vivere, infatti erano anche alti come noi, poi c'è stato un declino dell'altezza, c'è stato un declino delle, della qualità della vita. Come? Ecco questo. Ma io vorrei sapere, sì. Mangiare frutta tutti i giorni, ogni giorno, in cose normali, per pasti, diciamo. Allora, no, ma aspetta un attimo. L'ideale sarebbe avere un'alimentazione estremamente variata, perché la gente generalmente mangia sempre le stesse quattro cose, okay? La gente in genere, guardatevi intorno, andate a vedere cosa comprano al supermercato la domenica quando fanno la spesa per la settimana, comprano un sacco di schifezze, di cui la maggior parte contiene un sacco di fruttosio, zucchero, io dico fruttosio perché la metà maligna dello zucchero, ok? Poi comprano le marmellate, comprano un sacco di cose che veramente non sono molto giuste per noi. La frutta va bene, però la frutta di adesso non è più la frutta di un tempo. Ci sono perfino le arance sono diventate dolci, ok? L'arancia, dove l'arancia un tempo era un po' a spigna, no? Adesso sì, però se le metti in un centrifugato... No, mai per carità. Ma non ci sapevo. No, senza le bucce, sì, la bucciata, vero, bucciata. Sì, no, senza esagerare, perché se uno mangia soltanto frutta, ci sono quelli che dicono che bisogna mangiare un sacco di frutta perché fa bene. Se ne mangi troppa non fa tanto bene. Okay? Però con moderazione e... Purtroppo in alimentazione la cosa più difficile da fare è seguire il consiglio che io do a tutti, ma poi come farlo? Bisogna avere un'alimentazione variata, perché bisogna rispettare il nostro essere Homo sapiens. Purtroppo noi siamo onnivori, nel senso che dobbiamo avere un'alimentazione molto variata. Non che possiamo mangiare le cose che ci fanno male, le patatine San Carlo piuttosto che la Nutella, ok? La Nutella è 60% zucchero, per cui... No, me la sto prendendo, sto guardando in quella direzione perché... Ok, quindi no, il problema attuale, e finisco perché poi magari avrete delle domande da fare, il problema attuale è quello che si chiama, si può chiamare in vari modi, io lo chiamo... malnutrizione d'abbondanza, ok? Noi viviamo in un mondo di abbondanza in cui si mangia sempre, ci si nutre sempre, non si smette mai, non si lascia mai un momento per cui... che non è mai esistito, no? Nella nostra evoluzione si mangiava quando c'era cibo, anche tutti i giorni se possibile, ma non si conservava il cibo perché bisognava mangiarlo subito sul posto, okay? Magari lo si trascinava l'animaletto fino al fuoco, ma non c'era poi tanto fuoco, okay? Si mangiava tutto dell'animale, si mangiava soprattutto le parti nutrienti, il cervello, il midollo, il fegato, la milza, l'intestino. Come hanno fatto a sopravvivere nell'estremo nord? Nell'estremo nord vivevano dove non c'è la vitamina C, la prendevano dall'intestino delle foche che uccidevano, che avevano mangiato le erbe e che quindi avevano la vitamina C. Senza vitamina C noi non possiamo vivere e non la produciamo. E via dicendo. Noi abbiamo un problema metabolico, okay? Abbiamo che il nostro metabolismo è sconvolto. Forse il 90% delle persone, anche delle persone in questa stanza, non hanno un buon equilibrio metabolico. Ok? Equilibrio metabolico vuol dire che i vari sistemi che viene fatto nel nostro corpo non funzionano ottimamente come dovrebbero per garantirci una lunga vita sana e senza essere malati, ok? Che sarebbe, secondo me, l'obiettivo principale negli anni a venire, cioè mettiamo a frutto quelle che sono le conoscenze della, della biologia. Rispettare i batteri che vivono in noi, caspita, è fondamentale, ma se non sappiamo come si fa, come facciamo a farlo? L'alimentazione variata è una delle cose che aiuta i nostri batteri intestinali a vivere in equilibrio e quindi è necessaria per far funzionare bene tutte quelle immense quantità di sostanze, di attività chimiche che dobbiamo far funzionare. Quindi se mancano gli microelementi non funzionano bene. E microelementi ce ne sono. Una banana contiene 650 elementi, una foglia di insalata ne conterrà 150, uno spicchio d'aglio 250. Noi abbiamo bisogno di tutti questi elementi moltiplicati in maniera diversificata. Se li fate un'insalata, non fate un'insalata verde. L'insalata deve essere verde, gialla, rossa, con dentro il cipollotto, con dentro i semini, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi diventa tutto molto complicato, purtroppo. Perché rispettiamo la nostra fisiologia, oppure ne paghiamo le conseguenze. Ok? Scusa, il nemico prima, numero uno è il fruttosio, ma altri nemici. Allora, noi dobbiamo. Ci sono delle cose che ci fanno male, ok? E quindi quelle dobbiamo toglierle. Il fruttosio in primis. Ma poi ci sono tutti i prodotti industriali. Se voi guardate, non so quanti di voi mangiano i biscotti al mattino o le fette biscottate con la marmellata, tanti, lo so che lo fanno, per non parlare del cappuccino con brioche. Lì vedo uno che è abbonato. È buonissimo, lo so che è buonissimo. Però queste cose generalmente hanno sempre lo stesso odore, colore e sapore. Allora lì uno deve cominciare a sospettare se qualcosa che mi piace perché ha sempre lo stesso odore, colore e sapore, c'è qualcosa che non funziona. Provate a fargli i biscotti in casa sempre con lo stesso odore, colore e sapore. Non ci riuscite, ma neanche volendo. L'industria ci riesce benissimo perché c'è dietro un'industria ciclopica che produce odori, colori e sapori. Quindi vi mangiate quelle cose, la maionese nel barattolo per dirne una delle tante, e vi mangiate delle sostanze chimiche che non ci sono, non devono esserci. Quindi tutto quello che è prodotto dall'industria, io sono molto estremo da questo punto di vista, quindi qualsiasi cosa che l'industria produce non va bene. Poi non vi uccide sul momento. Com'è? Lo so, ma infatti... Due biscotti al giorno, così. Allora, uno se li fa usando gli ingredienti... No, io ho detto è difficile. No, non sto dicendo che è facile. È purtroppo l'unico... Sono così nocivi o c'è... Eh sì che sono nocivi. È certo che sono... Beh, ce ne sono certi che sono meno nocivi di altri, sì, dovete andare a cercare. Allora. Sì, magari fatti da qualcuno che li sa fare in una pasticceria o da... Beh, anche nella natura sì, dovete leggere le etichette, però state attenti, cioè non... Bisogna trovare dei compromessi, ovviamente. Viviamo in questo mondo, non siamo cacciatori e raccoglitori che vanno in giro nella savana. Quindi i compromessi sono che cercate delle cose di migliore qualità possibile. Chi va al supermercato e si compra il pollo del supermercato non va mangiato. Okay? È un prodotto industriale di pessima qualità. Okay? È vero, è comodo, lo cuoce in un attimo, lo tagliate con la forchetta, però provate a mangiarvi un pollo vero, ci mettete 3 ore a cuocerlo ed è ancora duro, lo dovete tagliare col coltello. Il problema è che non sono distribuite le cose buone, perché uno vuole un pollo buono, sì, io sto dicendo quello che dove ci ha portato questo mondo, ci ha portato a dover mangiare il pollo che non è mangiabile, okay? Perché sono stati allevati 100.000 polli in un ed è una roba orrenda. Invece quelli allevati a te mangiabili, quelli che costano 40 euro al chilo. No, sì. Carne, fettine, unito, ma senza niente. Costano molto più cari. Quelli del contadino, diciamo così, che sono duri come il sasso e non sono bianchi di colore, ma sono gialli. Sono gialli, ok? E così pure provate a prendere un coniglio, stessa roba, i conigli. Però se compate il coniglio al contadino, anche quello lì, prima di poterlo tagliare, ne passa del tempo, lasciarlo frollare, dovete... Ma per esempio, tu cosa ci consigli? Noi viviamo in questa cultura, non è che possiamo spendere tutti i giorni 50 euro per un pollo. No, no, spendete 50 euro per un pollo, non spendete un etto di pollo, sono un... Non lo so. No, no, io non ho una risposta, non posso trovare la soluzione. Io vi sto dicendo quello che è... Chiedevo un po' se ti suggerisci un po' di mezzo per bisogna trovare dei compromessi, ok? Io non so dirvi quali compromessi. Io non mi compro le cose, le maionese nel vasetto, me la faccio. Mi faccio l'insalata, non la compro quella nel pacchetto. Purtroppo, magari io sono fortunato e ho il mio studio sopra la casa di sotto, viceversa. Spendo mezz'ora di tempo per farmi preparare l'insalata che mando anche alla famiglia. Non tutti hanno il tempo di prepararsi a metà giornata, spendere mezz'ora o 40 minuti per preparare una bella insalata variata. Okay? Un'altra cosa, l'ultimissima cosa che voglio dire, perché io non posso darvi una soluzione. La soluzione è bisogna trovare dei compromessi accettabili. E quindi qua è gente che se lo può permettere. Se andate fuori in giro non è detto che tutti se lo possono permettere, purtroppo è così e la realtà è questa, quindi il pollo del supermercato andrà avanti per tempo immemorabile a fare danno, ma io non è che posso trovare una soluzione. Quindi l'altra cosa che non è irrilevante, perché questo non l'ho detto, ma ci sono quattro cose che sono importanti per la salute: lo stress, l'attività fisica, il riparare le cose e il cibo. Di cibo ne abbiamo parlato, dello stress non abbiamo tempo di parlarne. L'attività fisica è fondamentale perché soprattutto perché aiuta a vivere ai nostri mitocondri. I mitocondri, ve l'ho detto cosa sono, sono la nostra fonte energetica. Se stiamo fermi, li perdiamo, nel giro di 2 settimane cominciamo a perdere i mitocondri, quindi perdere energia, soprattutto dove nel nostro cuore, che ha bisogno di pompare 65-70 volte al minuto, ha bisogno di avere migliaia di mitocondri dentro ogni cellula del cuore. Okay? Quindi dobbiamo muoverci, perché i nostri antenati non avevano scelta. Quindi noi siamo Homo sapiens ancora, quindi 7 giorni su 7 dovremmo andare a caccia, a raccogliere l'acqua al fiume, eccetera, eccetera. Come? Vanno tutti a correre. Invece vanno tutti a correre, ma è meglio che niente. Vai in palestra, vai a correre, fai le scale, che so io. Cioè, ci sono, anche lì, non posso darvi la soluzione, però se uno non si muove è spacciato. E le persone anziane invecchiano prima perché si sentono stanche e non si muovono più. E quello è un guaio, è un dramma. L'altra cosa, l'ultima, scusate, continuo a dire l'ultima, per me vengono in mente altre. L'ultima è, bisogna riparare i danni. Se voi avete l'automobile, ogni tanto dovete portarla in officina, riparare questo e quest'altro. Il nostro corpo è uguale. Ma la riparazione non la fate voi dal meccanico, la fate quando? La fate di notte, la fate quando il vostro intestino non ha niente da digerire. Quindi questo è assolutamente fondamentale, per quello che il sonno è importante, la qualità del sonno è importante. È importante anche avere dei momenti della giornata, tutti i giorni, in cui non si mangia, non si fa niente che faccia ripartire l'attività digestiva. Questo perché? Perché noi abbiamo bisogno, anche quello, se pensate ai nostri antenati recenti, quindi prima di 12.000 anni fa, per capirci, ok? Stavano prevalentemente in Africa, avevano 12 ore di notte, 12 ore di giorno, e prima di cominciare a trasferirsi in giro per il mondo, e minimo non mangiavano per 12 ore, ok? Ma tutti i giorni, 7 giorni su 7. Quindi direi che questo è il minimo per dare la possibilità al nostro corpo di riparare i danni che sono stati fatti durante la giornata. Quindi proteine malfunzionate che vengono messe nei lisosomi come spazzatura. Cioè, ogni cellula produce spazzatura, sempre, tutti i giorni. Abbiamo bisogno di tempo per riutilizzare, buttare via davvero, eliminare. E questo si fa nei momenti di riposo. Riposo di notte, il sonno, e riposo digestivo. Quindi non si può mangiare sempre. L'ideale sarebbe non scendere mai sotto le 12 ore di digiuno ogni giorno. Di mezzo c'è anche la notte, quindi continuate. Se sono 14 è meglio. Se sono 16? Se sono 16 è l'ideale. 16. Io ne faccio 16. Sì. 16 è il... Però bisogna essere... Le donne possono farne 14, sì. Ma comunque il concetto è... Scusate, il concetto è mai scendere sotto le 12 ore, ok? È il minimo, indispensabile, perché potete riparare quello che è da riparare. Quindi lui deve mangiare serale a che ora? Beh, uno si può organizzare come vuole, sì. In una giornata tipo, appunto. Dalle 9 alle 9 sono 12 ore. Quindi sì. Io salto la prima colazione, ogni tanto la facciamo. Non è vero che salti tranne quando ci sono che no, noi tendiamo a saltare la prima colazione ogni... ma sì, questa è un'altra di quelle cose che vengono dette per... no, la prima colazione è una cosa nuova, non mai esistita che... dove sta la prima colazione? No, sai, queste sono le cose che si dicono, però non hanno una base logica. No, però c'era la cosa breakfast ieri, va bene. Sì, però si dice perché qualcuno che vuole venderti il breakfast. Questa è una cosa giusto, questa cosa di questo lasso di tempo lungo che tanti invece dicono che appunto è pessimo perché è necessario la colazione, se no è allora, il picco glicemico, cioè, sono migliaia di cose da dire, ma il picco glicemico, noi abbiamo, quando mangiamo aumenta il tasso, la glicemia aumenta, anche se mangiamo dei grassi, comunque il corpo libera sempre, il problema è tenere questi alti e bassi di glicemia entro un certo range che è abbastanza limitato. Il mangiare sempre, o il mangiare ad esempio, se uno fa la prima colazione abbondante, come? Con lo zucchero. Le colazioni tutte come si fa in Italia, perché in Italia, come vuoi una colazione salata? No, io mangio il cappuccino con quella, la glicemia sale e poi scende e fa venire voglia di mangiare ancora a metà mattina. Quindi moltissime persone hanno la prima colazione. Le fette biscottate con la marmellata, tipica colazione italiana, la glicemia sale, poi scende e a metà mattina vanno a mangiarsi il cappuccino con brioche perché muoiono di fame. Senti il buco. Esatto. E questa è un'altra cosa che non va tanto bene, no? In realtà noi avremo bisogno di non oltrepassare mai questo range, quindi di avere un'alimentazione, quindi non mangiare zucchero, non mangiare fruttosio è importante per questo, perché il glucosio fa salire e l'insulina deve rispondere immediatamente. Se mettete in bocca addirittura di quelle cose che non sono zucchero, ma che sono la stevia piuttosto che il, eh? Succede la stessa cosa. Miele no, il miele è prevalentemente fruttosio, però, però c'è anche un sacco di altre cose il miele, per cui non è soltanto, non è soltanto lo zucchero che è quella roba lì. Miele è una sostanza più complessa che va anche bene in dosi limitate, non puoi mangiare solo miele. Ok? Ho risposto, non so se ho... Avrete un sacco di altre cose? Sì, sì. Farò cena molto presto. Ho seguito spesso le conferenze del dottor Perrino. Sì. Con cui litigo spesso. Trasformazione industriale. Parliamone. Cioè, i ceci, perché li dobbiamo mettere a bagno la sera prima e non possiamo usare quelli del vasetto? I ceci vanno, i ceci sono seccati, sì, vanno messi, io li metterei a bagno per 24 ore. Ma perché? Ci mettono le industrie nel vasetto di vetro che ci permette di poter... Li fanno ad alta temperatura, li preparano ad alta temperatura, è tutto lì. Noi li teniamo a bagno, invece loro li mettono, li sparano a temperatura alta. Sono privi di quelle sostanze. No, ma non, forse è una delle cose meno nocive che ci siano, no? Perché appunto lui, io ci litigo per questi motivi. Ma Berrino è molto stranista. Berrino è stato mio maestro, ho iniziato a lavorare con lui 50 anni fa. Io lo seguo, è molto... Siamo un po' diversi adesso. Io sono un approccio molto più alto. Quando Berrino mi dice sì, l'uovo va bene uno all'anno, io dico: ma scherziamo, cioè l'uovo va benissimo. L'uovo, se è di galline che hanno mangiato bene, è una delle sostanze più ricche di micronutrienti che ci siano. Sono una è il fegato. So che non ti piace, però il fegato, solo che adesso non mi piace. Beh, se trovi la mucca che ha mangiato bene, il fegato va bene, bisogna cercarlo, bisogna trovarlo. Io vado a comprarlo qua in via Paolo Salpi, dove sono quelli delle cascinorsine, ma mucche che hanno mangiato. C'è l'acqua Pasco che individua tutti i vari allevatori che sono più o meno nella filopartia. Però questa è, bisogna essere un po' flessibili, perché viviamo in un mondo, bisogna fare la spesa al supermercato. Ma Perrino faceva le sue visite al supermercato per insegnare come si comprava. Lui diceva di portare la nonna, e tutto ciò che la nonna non riconosce come cibo, di non comprarlo. Sì. Ma le nonne ormai... Va bene, soddisfatti? No, avete altre domande? Io condivido quello che ha detto. Quasi tutto. Quasi, perché io mangio la Nutella tutte le mattine, mangio le 7 di mattina e poi le 8 di sera, quindi la pausa va bene. Quello che non ha mai citato sono la quantità di antibiotici che ingeriamo attraverso... Sì, ma io non ho citato un sacco di cose. No, perché sono antibiotici, questo è un fatto abbastanza violento. Quindi anche se uno non prende mai gli antibiotici, in realtà nessuno una quantità esagerata attraverso... Allora, gli antibiotici salvano vite, sì, se dati bene, e hanno salvato un sacco di... i bambini non muoiono più di gastroenterite grazie agli antibiotici, ok? Ma gli antibiotici vanno bene, ma voi sono usati in maniera intensiva negli allevamenti più degli anni 50. E se mangiate il pollo vi mangiate antibiotico. Nei primi 2 anni di vita, il 50% dei bambini fa meno un trattamento antibiotico, nei primi 2 anni di vita. Vuol dire che la maggior parte sono inutili, perché non è possibile questa cosa qua. Sono, ad esempio, l'otite media è una malattia virale, okay? Il 90% delle otite medie sono virali, però il bambino piange, la mamma va dal pediatra. Se il pediatra non gli dà l'antibiotico, va da un altro pediatra, per cui alla fine si becca l'antibiotico, dopo qualche giorno il bambino è guarito grazie all'antibiotico, ma non gli dà vero. Comunque no, è un argomento difficile, ma è vero, gli antibiotici sono un problema enorme. Non l'ho menzionato perché... No, troppa roba. Sì, perché però, gli allevamenti grandi, pulli, delle uova ne fanno un altissimo e noi contribuiamo al fatto che il questo che ha resistenza, perché io l'ho accennato, ma i microrganismi sono mica stupidi, hanno una lunga storia, quindi sanno adattarsi e addirittura sanno mescolarsi tra di loro, per cui cosa che noi non sappiamo fare esattamente come fanno i microbi. Quindi più siamo esposti al pollo del supermercato, più aumenta la quantità di microbi resistenti agli antibiotici, e quindi sarà un grosso problema negli anni a venire. Forse una minaccia. A proposito del dottor Perry, sono andata una volta e volevo farmi infilare nel campione, ma la cascina rosa? Sì, perché non ho la struttura fisica del dritto con le gambe, ma quello fatto qui. Quindi anche ho detto, se volete ingrasso. Non andava bene, ma non voglio chiedere questo. Dottor Berrino insisteva sul fatto che bisogna mangiare meno proteine possibile, perché le proteine fanno quando c'è il rischio di cancro uno ha avuto, ecco. Non animale, proteine in generale, anche non animali. E volevo sapere un po' di più su questo. No, è vero, noi siamo, qua siamo tutti adulti, okay? Non dobbiamo crescere. Quindi un eccesso proteico è un eccesso, per cui io ho detto, nella mia semplicità, ho detto bisogna avere un'alimentazione molto variata. Essenzialmente l'alimentazione variata viene dai vegetali, si può variare molto con i vegetali. Non abbiamo bisogno di tante proteine perché non dovendo crescere non dobbiamo stimolare l'ormone della crescita, non dobbiamo, quindi non è necessario un'eccessiva quantità di proteine, non si possono eliminare proteine, ci sono anche nei vegetali, okay? Per cui un'alimentazione variata a base vegetale, in cui se uno mangia carne può mangiare carne una volta alla settimana, noi credo che la mangiamo una volta ogni due, tanto quando, ogni anno vengono gli amici e si mangia la carne, però normalmente sì. Ma il muscolo non è nutrito dalla proteina, per esempio anche invecchiando che il cuore ha bisogno, questa è una domanda che si dice che a un certo punto bisogna anche mangiare invecchiando, se uno invecchia male, io vorrei arrivare a dire bisognerebbe evitare di invecchiare male, ma comunque se uno ci è già arrivato e ha mangiato zucchero tutta la vita, quello che fate fa. No, ma anche invecchiando bene, il muscolo ha bisogno di proteine. Se uno non si muove, okay. Allora se uno si muove ha bisogno di proteine perché vengono utilizzate immediatamente per mettere massa muscolare. Okay? Quindi le persone anziane devono muoversi. Non si può stare. No, ma io parlo per me, che non sono un personaggio di cella. Ma neanche io sono un personaggio. Appunto, ma allora la domanda è vero o non è vero che da un certo punto in poi comunque un po' di proteine, certo, sono necessarie per questa cosa, che anche il cuore è un muscolo, per esempio, che ha bisogno di, sì, questo. È vero. Però la cosa più importante di tutte è riuscire a mantenere una giusta quantità di mitocondri, un'attività mitocondriale giusta. L'attività mitocondriale si ottiene con un'alimentazione corretta e un'attività fisica regolare. Cioè stai dicendo che se aggiungo più alimento vado a quale... Puoi utilizzare bene le proteine, ok? Quindi le utilizzi, le metti nel muscolo, che non si... perché è molto facile con l'età perdere massa muscolare. Perdere massa muscolare è un disastro. Non va bene per niente, bisogna evitarla assolutamente, quindi bisogna continuare a essere attivi, e quindi se uno è attivo mangia un po' di proteine, però quante? Io mangerei carne una volta alla settimana, non di più. Però posso? Invece con Speciali, seguo per il mio so chi è Speciali. Sì. Mario, lui propone un grammo di proteine al giorno per peso. Cioè 60 kg, 60 grammi di proteine. Allora, io non faccio queste cose perché è molto difficile dire cos'è un grammo di proteine, perché come le calcoli? Per cui le persone sono impressionate da questa precisione, no? Ma in pratica cosa significa? Significa mangiare un'alimentazione variata, il più possibile variata, in cui alla fine c'è una giusta quantità di carboidrati, grassi e proteine. La cosa più importante però nella vita sono i microelementi. Quindi uno si mantiene sano perché ha tutti quei migliaia di microelementi che servono a tutte le migliaia, decine di migliaia, miliardi di attività metaboliche che avvengono in ogni istante della vita. Quindi bisogna passare da questa cosa che piace molto all'industria, che è i macronutrienti, proteine, grassi, carboidrati, alcune vitamine, eccetera, a bisogna mangiare variato. E come farlo? Difficilissimo, difficilissimo. L'insalata, il sacchetto, quella là, eccetera, no, è poverissima, per esempio. Ma sì, ma certo, questo... è difficile in tutto, però purtroppo è la cosa. Bisogna spendere. Bisogna spendere. E bisogna c'è una cena. La provincia c'è costosissima. Sì, no, ma potrebbero essere costruite anche così. 200 grammi per 2 euro, tanto, è carissimo, però c'è chi... Però la tua scala in Ghana, che è una della sì, certo. Scusate. Volevo sapere se diversi gruppi acquisiscono su una politica di dieta ideale. No, è una di quelle cose che si dicono, ma è... no? Si dicono tantissime cose che bisogna prendere con un grano sale, no? Per cui quella del gruppo sanguigno è una roba che viene detta, ma se ne dicono talmente tante... No, non c'è nessun dato che indichi che c'è una relazione tra gruppo sanguigno e proprio... se volete c'è la possibilità con loro di continuare questi, io ho fatto un accenno così poi possiamo magari trovarci e mirarla a cose specifiche, non so, che so io, il colesterolo piuttosto che se volete le statine no vero. Vedi, ci sono un sacco di argomenti. I batteri della felicità. No. Io sono partito dicendo che l'intestino è fondamentale. Sì, è un cervello che dà indicazione al cervello su quello che deve fare, certo. Per lo stimolo della sazietà, della resistenza. Se manca un equilibrio della microbiota, allora manca un certo stimolo al cervello e il cervello non riesce a regolare. Però quel libro per chi interessa è molto interessante. Non si chiama intestino felice? No, l'intestino felice è un'altra cosa. I batteri della felicità sono molto interessanti. Poi lei è un po', questa è la scrittura, è un po' talebano, ma io non sono talebano, però uso moltissimo io faccio testare il microbioma intestinale praticamente a tutti i miei pazienti, perché sta diventando una delle cose più importanti per la nuova medicina, che è anche diventa naturalmente preventiva, perché ci sono delle nuove tecnologie che vengono dalla biologia, per cui l'usare adesso stiamo imparando, sappiamo circa il 10% di quello che avviene nell'intestino con i microbi, però comincia a essere qualcosa che ci dà la possibilità di uscire dalla. Quindi due cose semplicissime che sono come ti alimenti e che tipo di batteriali nell'intestino già fanno la felicità di moltissime persone che si trovano ad avere un danno metabolico, quindi non stanno bene, stanno malino, così cambi l'alimentazione, aggiungi dei giusti probiotici basati sul test, e la gente sta meglio. Quindi fare il test per scoprire di che cosa si ha bisogno per mangiare. Anche se uno poi ha mangia bene, perché bisogna nutrirli i batteri, sì. Non è che si può mangiare Nutella. Non è che mangio Nutella e poi faccio il test e prendo. No. Lui mangia Nutella. Ah, come tantissimi. Allora, i microbi amano la Nutella, però se tu mangi Nutella alimenti soltanto i microbi che amano la Nutella, ma quelli che amano l'insalata sono... Quindi è per quello che bisogna variare, perché bisogna nutrirli tutti. In ognuno ci saranno nell'intestino 1500 specie diverse di microrganismi, più o meno, poi cambiano sempre in numeri, ma più o meno sappiamo che ce ne sono un paio di chili, diciamo così, di queste... non possiamo nutrirne alcune e non altri, dobbiamo nutrirli tutti, quelli che abbiamo definiti geneticamente dalla nostra struttura, che è diversa da persona a persona. Quindi per la nostra struttura, se poi facciamo un trattamento antibiotico non necessario e ne facciamo fuori una parte e devono ricostituirsi, diventa complicata la faccenda. Però comunque ormai si comincia a lavorare anche su questa nuova medicina che sta emergendo, che non è più soltanto la medicina riparatrice. Però è un bellissimo discorso sulla verità, ma se uno pensa veramente ai primissimi antenati, sorge un dubbio sul fatto che potessero realmente variare. Beh, quelli che stavano, gli studi dicono che il consumo era di circa 150 vegetali diversi durante l'arco dell'anno. Noi siamo in circa 20-25 massimo. Quindi c'è stato un crollo. Nonostante vivessero sempre la stessa zona, magari. No, perché cambiavano quando finiva il cibo, andavano da un'altra parte. Vivevano dove c'era abbondanza di cibo, poi si spostavano, non stavano mai fermi, erano nomadi. E qui seguivano. E poi gli animali che avevano mangiato quello che era giusto per l'animale erano ricchi di nutrienti. Per cui se tu mangi il fegato dell'animale, certo che se lo mangiavano. La verità è anche data dal fatto che mangiavano tutto l'animale, non solo il filetto, ma facciamo noi. Mangiavano? Noi mangiamo soltanto un muscolo. Noi mangiamo il muscolo. E anzi, devo dire che per certe zone il muscolo non si mangiava, perché bisognava mangiare dell'animale, bisognava mangiare tutto quello che si poteva mangiare subito in un clima tropicale. E il resto lo lasciavano alle iene, il muscolo, ok? Quindi si mangiava prevalentemente quello che è nutriente, quindi il grasso, il cervello, il fegato, quindi erano le sostanze nutrienti che avevano una grande varietà di micronutrienti. Questo è più o meno quello che possiamo ricostruire. Sappiamo anche adesso da studi archeologici, risalenti, in Medio Oriente trovano delle latrine di 3000 anni fa. Sono andati, adesso gli archeologi sono anche diventati dei molecoli, dei biologi, sono andati a cercare i batteri nelle feci di 2-3 mila anni fa. Okay? C'è il DNA, non ci sono i batteri, c'è il DNA. Okay? E l'idea è che la ricchezza batterica era enormemente superiore a quella nostra. Okay? Adesso abbiamo anche che stiamo perdendo... una parte di noi, c'è un'altra estinzione, che è l'estinzione dei batteri che vivono in noi. Okay? Quindi recuperarla è importante, ma se uno mangia variato è l'unico modo, e non è facile. Sì. Quante ne vuoi? La differenza tra prebiotici e probiotici. I prebiotici sono il cibo dei batteri, la fibra in realtà, ok? E i probiotici sono i batteri stessi con cui cerchiamo di intervenire. Quindi a volte si mescolano anche prebiotici e probiotici. L'inulina è un prebiotico, per dire una. Okay? La fibra è un prebiotico. Le fibre fanno male? Le fibre? Non ho sentito. No, le fibre sono il cibo dei nostri batteri. Insomma, si nutrono essenzialmente di fibre. Allora, noi sapete che abbiamo un intestino che è lungo circa 7 metri. I primi 6 o 6 e mezzo sono un'attività enzimatica, ok? Quindi si assorbono tutti i nutrienti attraverso degli enzimi che li scindono e li fanno assorbire. Dentro nel colon c'è un'attività fermentativa in assenza di ossigeno. Quindi voi quando tutti i giorni sentiamo che si gonfia, facciamo le puzze, quelle robe lì, perché l'ultimo è attività fermentativa in cui si utilizzano tutte quelle cose, soprattutto le fibre, che non sono state assorbibili prima. Tutto avviene nel colon. È l'attività che comincia 2-3 ore dopo aver mangiato, più o meno. Okay? E questa è importantissima perché un'enorme quantità di sostanze che non sono state digerite prima vengono digerite a livello del colon e poi viene assorbita anche l'acqua. Okay? Quindi le fibre sono fondamentali. Un'alimentazione variata vuol dire tanta fibra. Nonostante i diverticoli. Nonostante i diverticoli, sì, sì, certo. Nonostante i diverticoli. È un altro di quei miti che si dicono non bisogna mangiare i semi e le cose sui diverticoli. No. I diverticoli aumentano il danno. Adesso, senza esagerare ovviamente, io sto sempre parlando di alimentazione variata, non si mangiano solo lenticchie, si mangiano un po' di lenticchie, un po' di questo, un po' di altro. Purtroppo, lo dico di nuovo, è la cosa più difficile da fare, richiede un sacco di lavoro. Grazie a tutti. Grazie.